Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Risparmio, rinuncio, rinvio. Davanti alla crisi la famiglia italiana oggi reagisce così. Un'Italia più povera, arrabbiata e con i redditi ai livelli del 97, quella fotografata dal rapporto Censis del 2012. Meno della metà ha rinunciato alle vacanze o all'acquisto di abiti e scarpe. Tra le strategie di sopravvivenza c'è anche la messa in circuito del patrimonio immobiliare posseduto. Per arrivare poi agli 11 milioni che autoproducono tutto, dal pane alle conserve. Secondo il Censis, l'Italia affronta un'autentica prova di sopravvivenza, stretta nella morsa della crisi, dalla quale sta provando a uscire, cercando di miscelare il rigore imposto dalle istituzioni politiche ed economiche nazionali. Sembrerà una casualità, ma non lo dico per strategia. Questa mattina, uscendo dagli scalini della metropolitana di Piazza della Repubblica, sentivo parlare una ragazza, una signora, avrà avuto 40 anni, 35 anni, con un suo accompagnatore, elencavano le cose a cui stavano rinunciando nell'ordine gerarchico delle rinunce. Dice: la prima cosa, sto rinunciando ai vestiti. Dice: ma ne ho tanti nell'armadio, non è che vado in giro vestita di stracci. Dice: quindi questa è la prima cosa a cui sto facendo a meno. Secondo, adesso quest'anno eviterò di fare troppi regali per Natale. Terza, non usciamo più tanto la sera, evitiamo di andare al ristorante. Poi a un certo punto ho preso la strada dalla radio e l'ho lasciata a questo punto dell'elenco. Ma è un elenco fatale che penso potrebbe fare ognuno di noi. Nel bene o nel male, sia la situazione di alto e medio privilegio, sia situazioni più difficili, problematiche, fino a che siano esse drammatiche, tutti possiamo mentalmente fare questo tipo di conto. Anche se i nostri budget quotidiani ancora non ci fanno sentire così stretta, così impellente, così dolorosa addosso la stretta della crisi, comunque inconsapevolmente, in maniera subliminale, ognuno di noi sta rinunciando a qualcosa. Di qualcosa che evidentemente era superfluo, che evidentemente non è per lui un grande sacrificio, o in altri casi è un grande sacrificio. È qualcosa che ci fa venire le lacrime agli occhi, o qualcosa di estremamente vitale. Beh, di tutto questo e come supplemento complementare quello che in realtà sono i nostri punti di forza è stato l'argomento che ha articolato l'ultimo rapporto Censis sulla situazione sociale del paese. Di questo oggi parleremo. 800 24 00 24. Cominciate a preparare la vostra lista dei tagli quotidiani, dei tagli familiari. Sarà interessante confrontarli con quelli che sono i dati del Censis. Secondo l'ultimo rapporto Censis, negli ultimi 2 anni 2,5 milioni di famiglie italiane hanno venduto oro o preziosi. L'85% ha eliminato sprechi ed eccessi. Il 73% va a caccia di offerte. Il 62% ha ridotto gli spostamenti per risparmiare benzina. E sono state acquistate ben 3,5 milioni di biciclette. Inoltre sono 2,7 milioni gli italiani che coltivano ortaggi da consumare ogni giorno, mentre sono circa 300.000 le famiglie che negli ultimi 2 anni hanno venduto mobili e opere d'arte. 800 24 00 24. Mi interessa molto questa mattina avere dati stretti, dati asciutti dai nostri ascoltatori. Fate un attimo mente locale e iniziate a preparare per me, chiamando all'800 24 00 24, la lista delle vostre rinunce. Allo stesso tempo la lista delle vostre risorse nascoste, di ciò che non pensavate di avere a vostra disposizione, i punti fermi, i punti forti del vostro quotidiano su cui pensate di poter passare il guado, come fossero delle pietre che buttate in un ruscello, in un fiume, in un qualcosa che ci impedisce di attraversare un cammino, e saltellando sopra passate all'altra parte, o almeno sperate di poterlo fare. 800 24 00 24. Buongiorno a Giuseppe Roma. Buongiorno. Giuseppe Roma, sociologo, direttore del Censis, è stato recentemente nostro ospite. Questa mattina ci dice, con i dati del forse più importante istituto di statistica che ci fa la radiografia ogni anno, quali sono in realtà sia i punti fermi, i sassi su cui appoggiare i piedi nel nostro guado quotidiano, e quali sono i momenti di crisi. Innanzitutto le prime telefonate mi stanno arrivando, i primi sms a Roma, dicono ma sì, in fondo sì, è una crisi più che altro gonfiata dagli organi di stampa, quelli che scrivono evidentemente non sentono così pesante e stringente il prezzo dei sacrifici. A quale fetta il vostro campione appartiene questa gente? Ma certamente alla fetta, se vogliamo, anche maggioritaria, nel senso che le situazioni più difficili di grande disagio riguardano certamente anche qualche milione di persone, però in un paese da 60 milioni di abitanti poi possiamo anche dire che c'è una parte abbastanza solida. In che senso? Solida nel senso che può rinunciare a qualcosa, che ha messo da parte qualcosa, che ha una casa dove abitare. Cioè è chiaro che quello che noi abbiamo chiamato lo smottamento del ceto medio, il 60% delle famiglie italiane sono delle famiglie medie che negli anni passati sono riuscite a accumulare un po' di risparmio, che hanno una casa di proprietà e che oggi però hanno alcuni problemi. Il primo e forse più importante è quello dei figli, quello dell'avvenire dei figli, quello del lavoro dei figli, la scuola, i problemi anche di assistenza eventualmente, dove ci sono problemi di non autosufficienza di un componente della famiglia. Ecco, c'ha questi problemi, riesce in qualche modo a gestirli proprio perché, si direbbe in economia, i fondamentali sono solidi, nel senso che è la cosa più solida è il tetto dentro cui poter vivere. Quindi cominciamo, se cominciassimo a vedere, diciamo, cominciamo dalla superficie, quelli che mi stanno scrivendo dicendo ma sì, ma in fondo non ci stiamo accorgendo dei tagli. Ecco, quali sono, a seconda dei vostri dati, dei vostri rilevamenti, le prime cose a cui si rinuncia? Vale quello che ha detto questa mattina la signora della metropolitana, rinuncio ai vestiti? Sì, però la prima cosa che si fa, infatti noi abbiamo messo tre R, no? La prima cosa è che si cerca di risparmiare, quindi la prima strategia è quella di riorganizzare soprattutto la spesa alimentare, perché la spesa alimentare è una spesa quotidiana, una spesa in qualche modo obbligata, non è che si può usare quello che c'è in dispensa se è troppo vecchio come per un vestito. Quindi noi vediamo che quasi l'80% delle famiglie italiane ha riorganizzato la sua spesa alimentare, cerca offerte speciali, fa quello che poi chiaramente mediaticamente funziona, perché insomma fare il pane in casa, certo non è perché non si può, spesso è anche perché è un piacere farlo, perché si vuol fare un pane più di maggiore qualità, eccetera eccetera, però certamente la prima cosa che si fa, d'altronde se noi vediamo per esempio gli esercizi della grande distribuzione, che prima erano molto differenziati, noi se andavamo in un discount trovavamo dei prodotti di linea commerciale, cioè non quelli che erano pubblicizzati, non avevamo le grandi marche. Non avevano marche, tutti dicevano, però sono buoni i prodotti, si risparmia. Esatto, e invece nel supermercato trovavamo le marche, oggi praticamente non esiste più questa differenza, anche nei supermercati troviamo la marca commerciale e i prezzi un po' più bassi. Quindi è evidente che il primo argomento importante è quello della riorganizzare la spesa alimentare. Poi invece la seconda cosa che fanno circa i due terzi delle famiglie italiane è ridurre i costi della mobilità, perché è uno dei prezzi che più aumentato, che è schizzato alle stelle, è proprio quello del carburante. Quindi ridurre spostamenti in auto e ricercare di risparmiare sulla benzina. Infatti non vedo grandi flagellamenti dal polso del pubblico. Sì, certo. Tre giorni senza pompe, però nessuno si lamenta, pare si possa vivere lo stesso. Certo. Poi, e quindi queste sono strategie della vita quotidiana. Poi c'è che cosa si rinuncia, e qui effettivamente ci sono cose dove invece le opzioni sono possibili, perché ripeto, muoversi, alimentarsi sono delle cose a cui non si può rinunciare, mentre si può rinunciare per esempio a fare dei viaggi, si può rinunciare all'abbigliamento, ai nuovi acquisti, al ricambio diciamo di abbigliamento, calzature, si può rinunciare ai pranzi o le cene fuori di casa, alla convivialità che noi conosciamo, si rinuncia anche un po' a quel benessere personale che è fatto di cultura, non so, il cinema, i libri, ma anche di fitness, di palestra, eccetera. Si preferisce andare a correre che andare sul tapis roulant, tanto per... Sì, fino a tutto quello che insomma in Italia non è certamente... Ecco, mi sta scrivendo un ascoltatore l'SMS, televendite di opere d'arte, me le tirano addosso, appena schivato un dechirico. Ci si priva anche di quei generi di lusso, di scelta di piacere, di stile, di arte che si hanno in casa. Io nella scheda abbiamo messo gli italiani stanno vendendo gioielli di famiglia, ma in senso concreto. Beh sì, certamente chi ha delle opere d'arte in casa non credo che sia un cassa integrato, quindi siamo all'interno di... Però si è molto detto sul fatto che i compra oro sono aumentati, eccetera, eccetera. Ma io la vedo, certo, per una parte della popolazione, quella più povera, è un atto estremo, però per la gran parte delle persone... Io non ritengo che sia un atto proprio estremo, cioè non è l'oro alla patria, ecco, per capirci, ma dai gioielli alle opere d'arte, agli immobili, io credo che sia scattato un convincimento. Noi non abbiamo più la possibilità di avere patrimonio non utilizzato, cose buttate da una parte, magari... l'opera d'arte che non sta appesa al muro, insomma, anche nelle case degli italiani. Nasce magari la sindrome della cicala, bruciamoci tutto oggi, che ci importa tenercelo in cassaforte. Ma più che della cicala, secondo me, guardi, non è della cicala, è dell'investitore intelligente. Parliamo delle seconde case. Molti italiani hanno una seconda casa, non tutti hanno le ville, molti hanno anche delle case che hanno comprato con sacrifici, eccetera, e che sono prevalentemente una terribile iattura per molte famiglie. Se poi crescono i figli non ci va più nessuno, decade. Non ci va più nessuno, costano tanto di condominio. Adesso c'è una mazzata terribile sull'IMU. Allora, se quelle case vengono messe in circuito e vengono affidate a qualcuno che non te le fa distruggere e ci prendi un affitto e con quell'affitto ci paghi le spese, non è da cicala, è da persone intelligenti. Quello che fanno in tutta Europa. Se uno guarda, io mi capita di guardare su internet le offerte di case di chalet in Svizzera, ci sono chalet ricchissimi, di persone ricchissime che l'affittano nelle settimane in cui non la tengono in produttiva comunque. Quindi noi dobbiamo metterci anche in questa logica, non possiamo essere più quelli un po' contadini che la nostra roba ce la teniamo come una specie di senso di riscatto sociale. Ma allora, sentiamo un attimo Roma, sentiamo qualche ascoltatore, stanno cominciando ad arrivare i riscontri sul campo. Claudia, buongiorno. Sì, buongiorno, intanto complimenti. In ogni modo già da tempo si rinuncia. Io faccio parte di un medio ceto basso, diciamo, lavoratore che si acquista la casa, già da tempo si rinuncia a vestiti, è stata la prima cosa. Mangiar fuori non se ne parla, vacanze eliminate. Ma la cosa che adesso, oro venduto, perché visto che poi fra l'altro i ladri girano, di conseguenza conviene quei 2-3 mila euro averli spesi in un momento di necessità. Esattamente come sta dicendo il direttore del Censis, inutile tenerselo in casa, meglio usarlo. Sì, beh, meglio usarli perché cioè tanto va bene, sì, su questo sì un po'. Sicuramente bisogna cambiare mentalità, perché c'era un po' troppo superfluo e questo condivido, però e questo si è già oppure io parlo di me, io ho già eliminato da anni tutte queste cose. Ora non si riesce più a far fronte al mese con gli attuali soldi e le spese che sono cresciute tanto. Ad esempio la sanità, non puoi più permetterti di andare a farti una cura perché non hai i 500 euro o il ticket da pagare, perché non puoi pagarlo. Se la cura è necessaria, uno la fa. Cure necessarie, cioè si parla di cure necessarie, non di superfluo, massaggi o cose varie. Cure che per la salute, per prevenzione, diciamo, no? Si sa che se vai a fare qualsiasi tipo d'esame e ti fai un po' di cura, partono come minimo 300-400 euro nel corso dell'anno un paio di volte, quando va bene, perché poi l'età avanza, quasi sessantenne. Anch'io sono quasi sessantenne, ma se uno sta bene non si va a fare le cure, onestamente. No, ma però la pressione è alta, ti dovrai più tenere controllato. A meno di 60 anni c'è già questo. Cioè, bisogna capire anche che esiste anche una dilagante ipocondria che molte volte questo è eliminato, però se hai la tiroide, lei ha problemi sanitari e comincia a sentire il peso di non poter sempre avere la sicurezza, la tranquillità delle cure secondo lei necessarie. Mauro. Sì, buongiorno Gianluca. Ascolto. Io e mia moglie abbiamo fatto una scelta. Avevamo una seconda macchina, una macchinetta che usavamo relativamente poco. E così abbiamo deciso di venderla. Abbiamo mantenuto la macchina sola. E la seconda macchina non ce l'abbiamo più, ci spostiamo in base alle necessità con una, con l'altra non serve, facciamo con l'autobus, con un taxi, e il box che era di proprietà nostra l'abbiamo affittato, per cui abbiamo eliminato. Ecco, questo a quanto è corrisposto, diciamo, il vostro medio budget familiare di recupero? Beh, tenga presente che del box realizziamo 60 euro al mese. E per quanto riguarda l'auto... Dove abitate? In che città state? A Vicenza. Perché a Roma costerebbe molto di più. No, beh, insomma, è rapportato a una città piccolina. Sì. Però, voglio dire, comunque sia, deve pensare che il bollo e l'assicurazione già sono 1000 euro all'anno. Manutenzione, non abbiamo più il carburante, i pneumatici, la revisione. E poi quindi vi siete accorti? Si svaluta e bisogna cambiarla. Dico, la seconda auto era superflua, quindi non vi serviva, non vi occorreva? No, pensavamo che ci occorresse, in realtà ci siamo resi conto che potevamo farne a meno. E vivete lo stesso? Che organizzandoci abbiamo fatto lo stesso. Stefano, buongiorno. Sì, buongiorno, signor Oscar, lei è un grande, comunque, volevo dirle. Signor? Allora, noi siamo Stefano. Ah sì, Stefano. No, come Stefano, mi aveva chiamato a me. È un grande. Ma io Giannino? No, mi scuso, ho sbagliato, sto parlando con te. Io volevo dirle a quello che stiamo rinunciando. Praticamente stiamo rinunciando a tutto, ai mezzi di trasporto, perché comunque la benzina costa, anche a far bisogni quotidiani della famiglia. Stiamo mangiando praticamente i legumi, le cose che costano meno, anche perché dove abito io un chilo di tacchino costa 12 euro. La vita è molto cara. Quindi meglio un chilo di fagioli? Beh, diciamo che i fagioli almeno contengono proteine nobili e fanno meno male. Ecco, questa è per dire la situazione. Io ho perso lavoro un anno fa, quindi non si riesce a trovare niente, ho 47 anni e la situazione purtroppo è questa. Grazie Stefano. Giuseppe Roma, direttore del Censis. Sono contento perché vedo che troviamo confermati immediatamente sul campo quelli che sono i punti che abbiamo toccato fino adesso. Si comincia dall'aspetto alimentare, ci si fa un po' di valutazioni, si rende conto che comunque nella propria vita, per quanto modesta o banalmente normale, come vogliamo dire, esistono delle cose che sono tagliabili, come la seconda macchina, come diceva lei, la seconda casa. Certo, io pure sono... da un certo punto di vista contento, perché vuol dire che il nostro modo di analizzare e di capire l'Italia, e queste telefonate sono bellissime perché ci fanno capire proprio come dal basso si vive un po' la crisi, insomma direi che poi è una visuale che non sempre si ha dall'alto, perché poi gli italiani insomma a volte sembrano dover essere educati a essere migliori, invece non sono migliori perché lo fanno anche senza bisogno di una pedagogia. Una cosa sola, volevo un punto di chiarimento, se possibile, sa qualche elemento. La signora diceva le spese della sanità, io ho intuito, ma perché sono malvagio di animo, che sono state costrette molte persone a rinunciare, diciamo, a un surplus di attenzioni mediche, di analisi, di esami, di medicine, di cure, di supporto non prettamente necessarie. È una mia maligna supposizione o c'è qualcosa di fondo di vero? C'è un po' di fondo di quello che dice lei, c'è, nel senso che abbiamo un rapporto con la sanità e questo ci ha creato anche dei fatti positivi. La longevità italiana è dovuta anche da una iper utilizzazione degli strumenti sanitari, quindi un po' c'è, perché qualsiasi cosa noi pensiamo che la sanità ce lo possa risolvere, però quello che diceva la signora secondo me invece è un altro aspetto, ed è un aspetto collegato con la riorganizzazione, i tagli della sanità pubblica e dall'altra parte anche con la necessità che si ha di urgenze o anche di particolari cure. Facciamo le cure dentistiche, queste non le passa il welfare nazionale, quindi noi rileviamo che molta gente non rinvia o non le fa, cioè è chiaro che non, se c'ha un ictus è un altro problema, però ci sono tante cose, visite mediche o anche analisi che nella struttura pubblica hanno lunghe code. Una volta magari uno, avendoci più disponibilità, non aspettava i 6 mesi, gli 8 mesi per fare quell'accertamento, lo faceva prima. È evidente che c'è anche un po' di iperattenzione, soprattutto alle popolazioni di età medio-alta, verso la sanità, però quello che noi rileviamo è proprio ieri abbiamo presentato un rapporto in cui il welfare, sia in termini di sanità, di previdenza, di assistenza, che bene o male ha rassicurato per tanti anni gli italiani. 800240024, stiamo parlando con il direttore del Censis, Giuseppe Roma, del rapporto Censis, 46esimo rapporto Censis, sulla situazione sociale del paese. Stiamo confrontandoci con i nostri ascoltatori che ci fanno l'elenco di come stanno loro affrontando la crisi, quali sono i tagli individuali, volontari, necessari che fanno in famiglia e quali sono i patrimoni acquisiti su quali fanno conto per tirare avanti. Claudio, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, io ho sentito che dalla ricerca del Censis avete citato le attività di coltivazione diretta delle famiglie. E è vero, lo confermo, io ho un terreno a Milano di 25.000 metri quadri che ho trasformato in orti per famiglie e abbiamo la lista di attesa di chi è interessato a coltivare personalmente le verdure, ma non solo ottengono grandi risparmi sul loro bilancio familiare, ma hanno anche capito il valore della terra e quindi si sono un po' automaticamente... Di media che superficie ha un orto che lei dà in gestione? Sono orti da 75 metri quadrati ognuno e sono sufficienti per una famiglia di dimensione media. Normalmente all'orto vengono anche i nonni e quindi... Diventa un po' il passatempo per gli anziani anche, si vedono spesso. Passando con il treno su Roma-Milano, a un certo punto si passa attraverso una sorta di baraccopoli, non è molto bella da vedere, però sono gli orticelli di pace di molti anziani che li coltivano. Ma è realmente un'attività produttiva, cioè compensa veramente quello che è un calo di potere d'acquisto della famiglia? Allora, a detta degli utenti questo avviene sicuramente, anche se c'è un'onerosità comunque per disporre della terra che è necessaria. Ma lei l'affitta, il suo business cos'è, affittarla? Sì, io li allestisco e poi li affitto €1 al giorno, perché sì, il terreno è privato e quindi noi a nostra volta paghiamo un affitto ai proprietari che sono dei cugini e quindi abbiamo chiesto a loro di mettere a disposizione quest'area. Ma la cosa che volevo segnalare è che le amministrazioni comunali, soprattutto delle grandi città, molto spesso hanno disponibilità di grandi aree che non sono in grado di allestire perché comporterebbe dei costi molto elevati farlo da parte della pubblica amministrazione. E invece se si consente questa sussidiarietà orizzontale di operatori che possono aiutare le famiglie in cambio di questo... Perché il terreno va preparato, bisognerà mettere a disposizione per evitare che una struttura, un apparato idrico per innaffiare, dei depositi per gli attrezzi, non è così... Esatto, perché altrimenti poi succedono quelle cose che si vedono di fianco alla ferrovia. Le baraccopoli che sono orribili, certo, sì. Invece si possono realizzare cose molto dignitose anche sul piano paesaggistico e soprattutto si diffonde una cultura del facciamo tutti qualche cosa, perché la crisi non è un problema estraneo alle famiglie, la crisi è una cosa che tutti possiamo aiutare a risolvere con stili di vita nuovi. Grazie Claudio. Antonio. Antonio. Salve, buongiorno. Antonio. Intanto complimenti per la trasmissione. Io sono Antonio, vengo da Conegliano. Per me la crisi, diciamo, che ha inciso tanto sul mio budget familiare, quello di mia moglie, da quando abbiamo avuto i figli. Mia moglie ha dovuto rinunciare al suo lavoro, cercando un lavoro part-time, perché comunque i costi di mandare i bambini all'asilo nido sono, secondo me, eccessivi, perché dove avete tagliato? Abbiamo eliminato la seconda macchina, abbiamo ridimensionato la spesa, abbiamo ridimensionato la telefonia, comunque cercando di evitare di telefonare se non è necessario, eliminato i viaggi. Ecco, questo posso fare una domanda, non commensurabile in cifre. Quanto questo ha inciso sulla qualità della vostra vita? Quanto siete meno felici rispetto a prima? Guardi, per me non sono stati grandi sacrifici, però in un momento come adesso, per dirla, io mi trovo a dover sottopormi a un intervento odontoiatrico, ho dovuto tagliare su tutto per mettere, risparmiare dei soldi per fare questo. E tutti mi stanno sottolineando questo fatto, il dentista è il primo grande vero problema, in effetti quando si comincia a vedere una persona che si trascura dei problemi, quando palesemente non ha i denti a posto e non a caso stanno emergendo offerte mirabolanti di cure odontoiatriche totali all'estero, prendi, vai, emigra, ti fanno tutto a prezzi stracciati, poi le persone tornano magari e cominciano ad avere qualche problema. Marco. Sì, salve dottor Nicoletti, buongiorno. Buongiorno. Sì, ecco, io volevo portare la mia testimonianza, visto che sono, penso di essere ancora un po' giovane, anche se ho 28 anni, nel senso. Abbastanza giovane, direi. Ecco, e siccome si parlava appunto delle rinunce, ecco, io volevo riportare che io con la mia ragazza abbiamo 2 anni fa deciso di, insomma, abitare insieme, quindi prendere una casa in affitto, ecco, e dopo 2 anni esattamente, dopo aver rinunciato a macchine nel senso più totale, cioè essere appiedati, dopo aver rinunciato alle cene in settimana e tutto, adesso diciamo rinunciamo definitivamente al paese, ci trasferiamo in Olanda, perché non è più, secondo me, almeno dal mio punto di vista, non è possibile per dei ragazzi ancora, ripeto, secondo me abbastanza giovani, dover rinunciare a tutto senza una prospettiva di un domani comunque. Ma perché non avevate un lavoro? Qual era il problema delle continuità? Sì, lavoriamo, io lavoro, la mia ragazza fa un lavoretto, diciamo, perché come è appena uscita dall'università fa un lavoretto, ma non è sostenibile. Quanto vi entra al mese, in parole povere? Ma guardi, io facendo tra le 9 e le 12 ore al giorno riesco ad arrivare a 1300 euro al mese, la mia ragazza quando lavora sono 50 euro ogni volta che lavora. Quindi è comprensibile che se dovete pagare anche un affitto non è, esatto, che rimane moltissimo, non è che rimane. Esatto. E in Olanda cosa andrete a fare? In Olanda io sono un tecnico di saldatura, l'offerta è molto ampia, ho diversi amici. Quindi è un lavoro specializzato, molto qualificato. Sì, beh, diciamo sì, riparo, regolo macchine per la saldatura, sì, insomma, ho studiato un po', ecco, non sono uno scienziato. E quindi là avete una prospettiva migliore. Esatto. Giuseppe Roma, partendo da questa ultima telefonata, mi piacerebbe capire una cosa. A tempo che il vostro rapporto Censis veniva pubblicato e presentato nella giornata appunto di ieri, è cambiato molto nella politica e c'è stato un notevole cambio, anche traumatico, nella scena politica. Però l'aspetto politico era già osservato nel vostro rapporto. Cosa dovreste cambiare in teoria oggi rispetto alle notizie degli ultimi giorni? Dovremmo cambiare abbastanza poco, anche rispetto alle notizie proprio di ieri, perché il rapporto con la politica degli italiani è un rapporto difficile, è un rapporto di bassa fiducia nelle istituzioni, perché evidentemente le istituzioni sentono poco questi problemi. In realtà la politica ci dice sempre cosa dobbiamo fare noi, ma non riesce mai a dire a se stesso come dovrebbe cambiare in senso positivo. Per esempio, vediamo che il sentimento prevalente è un sentimento di rabbia, e questa rabbia è dovuta sostanzialmente al fatto che si ritiene che la crisi sia peggiorata in Italia, sia ancora più acuta per 3 fattori più uno: la corruzione, gli sprechi della spesa pubblica, l'evasione fiscale che poi produce una forte pressione fiscale. D'altronde abbiamo avuto proprio ieri, ancora praticamente ogni giorno abbiamo notizie di arresti più o meno eccellenti, quindi è chiaro che il problema della politica, al di là poi dei cambiamenti, di queste logiche del governo tecnico, della discesa in campo, delle primarie, che naturalmente vengono sparate dai media come i fatti più importanti. Ma diciamo che la teoria nuova che emerge proprio fra ieri e oggi è quella del complotto internazionale, la stretta dei grandi europei che ce l'hanno con noi. Questo forse è un dato che non era emerso in maniera così prepotente. Non ci cascano, secondo me gli italiani non cascano su questa cosa. Non ci cascano su questo, perché hanno perfettamente capito che, ripeto, io non dico a caso, potrei anche dare percentuali, insomma, la crisi è dovuta a dei mali che sono molto radicati in Italia, non che la corruzione non ci sia anche all'estero, abbiamo fatto anche un confronto fra l'opinione degli europei e quella degli italiani, però in Italia è la velocità doppia, insomma, gli italiani che pensano che ci sia una corruzione diffusa sono il doppio della media degli europei, quindi il punto oggi io non credo che siamo strangolati lo dico persino dai mercati internazionali, dalla finanza, cioè il problema credo gli italiani lo conoscono, perché è esattamente quello di cui noi stiamo parlando, è chiaro che se ci avessimo famiglie con un forte debito e che pensassero che i cattivi sono quelli che gli hanno prestato i soldi e per cui non glieli ridanno, io non ho mai sentito nessuna famiglia pensare questo. Anche quando il mutuo, magari a tasso variabile, aumenta, la prima cosa che fa una famiglia è quella di salvaguardare il suo patrimonio, di pagare il mutuo. E abbiamo quasi il 90% delle famiglie italiane che si dicono abbastanza tranquilli, che hanno fatto bene i loro calcoli, certo, e quindi capisce, c'è una differenza troppo rilevante con una politica dove invece alla fine facciamo anche il confronto, abbiamo sentito tante persone normali e io devo dire che questa trasmissione mi piace molto perché fa, non so, ha questa capacità di far sentire voci non come posso dire, che non ripetono i luoghi comuni sentiti. Noi abbiamo visto delle persone che hanno rinunciato anche a cose significative eppure lo fanno, non dico con una certa serenità, ma comunque con una certa serietà. Un ascoltatore si è offeso perché ho detto che le cure dentistiche all'estero fanno male. Non ho detto fanno male, ci sono delle oggettive messe in allarme da parte dei dentisti nazionali, stare attenti dove vanno, per prezzi stracciati fanno tutto, senza specificare quali sono i materiali e senza poi sapere chi ti ha messo le mani in bocca, se avrai dei problemi come fai a ritrovarlo. Poi ognuno faccia quello che vuole, questo argomento comunque da Nicoletta Carbone, non me ne occupo io. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Sì. Io ho ascoltato con molta attenzione, mi sente perché sono in macchina? Sì, l'ascolto. Con molta attenzione sia l'ultimo intervento del funzionario del Censis, il direttore Giuseppe Roma. Sì, del direttore, sia tutti gli interventi che hanno fatto prima i miei concittadini italiani. Ecco, adesso faccia il suo però. Devo dire che l'ammirazione che il direttore del Censis ha per questi cittadini che rinunciano ad ogni cosa possibile. Non è che li ammira, li registra, è il suo mestiere. Lui interroga, osserva e analizza i dati. Io volevo semplicemente dire che io ho fatto una scelta diversa, nel senso che dopo aver tagliato tutto ciò che era possibile tagliare, mi sono reso conto di essermi liberato di un ricatto, il ricatto di Stato, la proprietà. Quindi? Io ho rinunciato alla casa, alla fine ho dovuto restituire anche la macchina che avevo in leasing perché non potevo più pagarla. Era un contratto, se non la poteva pagare non se la poteva nemmeno tenere. Ho fatto quello che era giusto fare. Ad un certo punto mi sono reso conto però che essendomi liberato di tutto, io in realtà mi ero liberato dalla cosa più importante, il ricatto di Stato. Cioè io adesso, non avendo nulla, ho tagliato tutto ciò che dovrebbe essere pagato a questo Stato. Nel 1200 anche Francesco d'Assisi fece la stessa cosa, poi divenne anche santo. Quindi si sta senz'altro migliorando se stesso, quindi rinuncia al ricatto di Stato, non paga le tasse perché non ha nulla. È una scelta anche questa, non è assolutamente criticabile. Flavio. Eccomi qua. Vuole fare una battuta al signore, non è che io sia crudele. Flavio. Buongiorno a tutti, buon lavoro. Poi non ha rinunciato a nulla, telefonava dalla macchina, quindi l'automobile ce l'aveva ancora. Flavio, prego. Buongiorno a tutti, buon lavoro. Sì. Grazie, prego. Niente, io ho notato nella trasmissione meravigliosa un canovaccio d'Italia che già conoscevo ma che mi mi dà un senso patriottico meraviglioso. Cioè, ammainare la bandiera in questo momento non è da me, però anche perché ho 50 anni. Ma nessuno ammaina la bandiera, non mi sembra che il senso generale sia... Qualcheduno va via, qualcheduno altro... Ah beh, vabbè, se hanno trovato un'occasione di lavoro in Olanda, non ci vedo nulla di male. Uno deve essere libero anche... Cioè, non è che per forza dobbiamo mantenere la fierezza del sacro suolo. Cioè, ma chi se ne importa? Il mondo è vasto, va benissimo. Comunque una cosa volevo dire, soprattutto al direttore del Censi, Giuseppe Roma, che io faccio formatore medico e vendo farmaci antidepressivi, è uno della branca che ha avuto un aumento del 260%, di conseguenza questo è un dato negativo per quanto riguarda... Ci sono più depressi? Molto più depressi, gente che chiaramente cerca di capire dove deve andare e cosa deve fare. Allora di buon conto, io ho chiamato perché i sassolini che bisogna mettere per attraversare il guado da parte della mia famiglia vengono presi e recuperati dai mercatini, perché si vende ciò che si ha in casa. Cioè, io ho venduto i miei giocattoli di metallo, ho venduto i miei soldatini, mia moglie ha venduto la sua enciclopedia Treccani, mia moglie fa l'avvocato. Andiamo a fare la spesa al venerdì, dove i supermercati più attrezzati hanno dei banchi frigo last minute dove si comprano i prodotti in scadenza. Ci si organizza, ci si sveglia, ci si dà un nuovo senso di vita. Certo, siamo abbastanza incazzati perché stiamo alleggerendoci le gioielli di famiglia che pensavamo di tenere, almeno da dare in eredità ai figli. Questo da una parte... Io però, le dico una cosa, parlo per me, me ne prendo la responsabilità. Non me ne faccio un grande problema, mi rendo conto di essere appesantito da un'infinità di beni di possesso che ritenevo indispensabili, che forse privandomene vivrò anche meglio. Questo non vuole giustificare nulla a nessuno, però è chiaro. Salem, buongiorno. Buongiorno, dottore. Senti, secondo me, io diciamo un principio di vita è così, la solidarietà è tutto. Praticamente specialmente per combattere queste crisi. Per esempio, fare la spesa, vanno quelle 3-4 donne insieme e fanno la spesa. Io per esempio il sabato vado al mercato all'ingrosso di frutta e compro per tutti. Io so imbiancare, faccio il lavoro a quelle lì, quelle mi aiuta a fare cose idrauliche, con l'elettricista a casa. Lei da dove viene, Salem? Dalla Tunisia. Tunisino, sì. Quindi sì. È perfettamente integrato e anche lei, come tutti gli italiani, stringe la cinghia. No, anche amici italiani, sto parlando non solo per noi, fra di noi, anche fra italiani. Per esempio, i ristoranti, noi mangiamo ogni settimana a casa di qualcuno. I bambini giocano insieme, noi mangiamo insieme e la prossima settimana vengono a casa mia e così via. Quindi avete trovato, suggerito una forma di convivialità che non è assolutamente segno di micragna, ma anche molte volte uno dice stiamo anche meglio a casa. Questa è una scelta anche di qualità. Giuseppe Roma, questo fa parte di quel termine, si chiama la restanza, che uno mette a massimo frutto quello che è un patrimonio profondo, che va anche oltre i beni materiali. Rivedersi a casa tutti quanti non vuole essere un palliativo o una consolazione, Dio me ne guardi, ma si riscopre anche una vita diversa, tutto sommato. Alla fine è diventata una frenesia molti dei nostri consumi. Io penso che sia proprio così, e quest'ultimo intervento veramente apre il cuore, nel senso che è evidente, il problema non è tanto andare al ristorante, il problema è la convivialità, è stare in momenti anche di rilassamento e di rapporto e di relazione. Quindi, anche perché Roma, scusi se la interrompo, poi lascio finire, no. Andare al ristorante, vedere una famiglia con 10 persone e amici, che ognuno ha il suo smartphone che passa il tempo a rispondere su Facebook o su Twitter mentre dovrebbe mangiare, è meglio che stiano a casa, sinceramente. Io voglio fare questo discorso perché gli ascoltatori giustamente non fraintendano, qui non è che siamo contenti perché la gente si vende gioielli o perché c'è. Quello che vogliamo dire è anche la restanza, che cos'è? Che questo modo di essere un po' italiani, quindi anche patriottico, cioè di essere un po' solidali, di avere il gusto e anche la sobrietà delle cose, che diciamo francamente... tre o quattro decenni di grande sviluppo, di grande crescita anche del benessere di tutti, forse avevamo un po' smarrito. Questa crisi ci sta costringendo a pensare anche in un altro modo le cose. Non è che per tutta la vita dovremmo stare in una condizione così di difficoltà, ma io penso che ci sia al fondo anche il riconoscimento che un superfluo a cui si può rinunciare ci sta anche dando il piacere delle cose più belle da fare. Poi, grazie Giuseppe Roma, la sigla ci sta tagliando, è stato molto interessante, non è assolutamente una giustificazione, un palliativo, ma una maniera per riflettere anche sugli aspetti che stanno dietro una crisi. A domani.